Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Battevano le 7 quando, davanti al cancello del numero 30 degli Champs-Élysées, si fermò una carrozza d'anolo che sembrava fuggire quasi furtiva dopo aver deposto a terra un uomo di circa 52 anni vestito con uno di quei soprabiti verdi con alamari neri di una foggia che sembra non voler tramontare in Europa. La testa piccola e spigolosa di quest'uomo, i capelli quasi canuti, i baffi folti e grigi lo fecero accogliere da Bertuccio, informato con precisione dei connotati del visitatore, da lui atteso nel vestibolo. Lo straniero fu introdotto nella sala meno elegante, dove il conte, attendendolo, gli si fece incontro sorridendo. «Ah, caro signore, siate il benvenuto. Vi aspettavo». «Davvero?» disse il lucchese. «Vostra eccellenza mi aspettava?» «Vediamo», disse Montecristo. «Non siete il marchese Bartolomeo Cavalcanti?» «Bartolomeo Cavalcanti», ripeté il lucchese rassicurato. «Sta bene. Ex maggiore al servizio dell'Austria?» «Ah, ero dunque maggiore?» domandò timidamente il vecchio militare. «Sì», disse Montecristo. «Eravate maggiore. È il nome che si dà in Francia al grado che avevate in Italia». «Ah, bene», disse il lucchese. «Non domando di meglio, capite? D'altra parte non siete qui di vostra iniziativa», replicò Montecristo. «Oh, sì, certamente. Mi siete stato indirizzato da qualcuno?» «Sì». «Dall'eccellente abate Busoni?» «Proprio lui, sì», esclamò tutto contento il lucchese. «E avete una lettera? Eccola!» Montecristo prese la lettera, l'aprì e la lesse. «È proprio lui, il caro Busoni. Il maggiore Cavalcanti, un rispettabile patrizio lucchese, discendente dai Cavalcanti di Firenze», continuò Montecristo leggendo a voce alta, «e che gode una fortuna di 500.000 di rendita». Montecristo lo guardò al di sopra del foglio e fece un inchino. «Di 500.000?» soggiunse. «Salute, mio caro Cavalcanti!» «C'è scritto 500.000?» domandò il lucchese. «Cifra dopo cifra. E deve essere così. L'abate Busoni è l'uomo che conosce meglio di tutti le più grandi fortune d'Europa». «Vada per 500.000», disse il lucchese. «Ma parola d'onore, non credevo di possedere tanto. Perché avete un intendente che vi deruba. Che volete, caro signor Cavalcanti? Ciò è inevitabile». «Voi mi aprite gli occhi», disse il lucchese con gravità. «Metterò il furfante alla porta». Montecristo continuò a leggere. «Al signor Cavalcanti non manca che una sola cosa per essere felice: di ritrovare un figlio adorato, rapito da bambino, o da un nemico della sua famiglia o da zingari». «All'età di 5 anni, signore», intervenne con un sospiro il lucchese e alzò gli occhi stralunati verso il cielo. «Ma sedetevi dunque», disse Montecristo. «Davvero non so più quel che faccio. È un quarto d'ora che vi tengo qui in piedi». «Ah, oh, no, non vi disturbate». Il maggiore prese una sedia e si sedette. «Così, signore», disse Montecristo, «voi abitate a Lucca. Siete ricco, siete nobile, godete della stima generale, ma vorreste ritrovare vostro figlio». «Oh, sì, sì», fece il maggiore. «Questo solo mi manca». «Vediamo, signor Cavalcanti, chi è questo figlio che tanto rimpiangete? Mi fu detto che siete rimasto lungamente celibe». «Ah, lo credevano, signore», disse il maggiore. «E io stesso». «Sì», riprese il conte. «E voi stesso avete dato credito a questa voce? Un peccato di gioventù che volevate nascondere agli occhi di tutti». Il lucchese si ricompose. Si sforzò di assumere un'aria calma e dignitosa, abbassando con modestia gli occhi sia per darsi un contegno, sia per aiutare la sua immaginazione, ma guardando di sottecchi il conte, il cui sorriso stereotipato rivelava sempre la stessa benevola curiosità. «Sì, signore, volevo nascondere questo errore agli occhi di tutti». «Non per voi, ma per sua madre», replicò il conte. «Per sua madre!» gridò il lucchese. «Per la sua povera madre! Oliva Corsinari, non è vero?» «Oliva Corsinari. Marchesa?» «Marchesa. E finiste con lo sposarla, malgrado l'opposizione della famiglia?» «Mio Dio, sì, sì, è andata così». «Avete i documenti in regola?» riprese il conte. «Quali documenti?» domandò il lucchese. L'atto di matrimonio con Oliva Corsinari e l'atto di nascita di vostro figlio. Signor Conte, sono spiacente di dirvi che, non essendo stato avvertito, non ho pensato di portarli con me. Fortunatamente l'abate Busoni ci ha pensato al vostro posto. Eccoli qui. Voi avete sposato Olivia Corsinari nella chiesa di San Paolo a Montecatini. Ecco, l'atto di nascita di vostro figlio Andrea Cavalcanti, rilasciato dal parroco in Serravezza. Il lucchese giunse le mani in segno di ammirazione. Bene, ora che tutto è combinato, ora che la vostra memoria rinfrescata non vi tradirà, avrete certamente indovinato che vi ho preparato una sorpresa. Vostro figlio, il vostro Andrea, in questa stessa casa, il cameriere mi ha avvisato poco fa del suo arrivo. Quando il conte entrò nel salotto, il giovane era steso con naturalezza su un soffà e si percuoteva distrattamente lo stivale con una sottile canna dal pomo d'oro. Scorgendo Montecristo, si alzò con prontezza. «Il signore è il conte di Montecristo?» disse. «Sì, signore», rispose questi. «E io ho l'onore di parlare, se non erro, con il visconte Andrea Cavalcanti». «Il visconte Andrea Cavalcanti», riprese il giovane, accompagnando queste parole con un saluto disinvolto. «Non avete una lettera di presentazione?» «Ma non ve ne avevo parlato a causa della firma, piuttosto strana. Sinbad il marinaio, non è così?» «Esatto, e siccome non ho mai conosciuto altro Sinbad il marinaio che quello delle Mille e una notte, è uno dei suoi discendenti. Ed è uno dei miei amici, molto ricco, un inglese, più che originale. Mezzo matto, il cui vero nome è Lord Wilmore». «Ah, ecco spiegata ogni cosa», disse Andrea. «Allora tutto va a meraviglia. Effettivamente ho avuto occasione di conoscere Lord Wilmore, signor Conte. Sono vostro servitore. Spero che sarete tanto gentile da darmi alcune informazioni su di voi e sulla vostra famiglia», disse sorridendo Montecristo. Volentieri, signor Conte, rispose il giovane con una prontezza che provava la potenza della sua memoria. Io sono, come avete detto, il visconte Andrea Cavalcanti, figlio del maggiore Bartolomeo, discendente dai Cavalcanti iscritti nel Libro d'Oro di Firenze. La nostra famiglia, quantunque ancora ricca, poiché mio padre gode di una buona rendita, fu colpita da moltissime sventure, e io stesso, signore, all'età di 5 anni fui rapito da un precettore infedele, di modo che sono già 15 anni che non vedo il mio genitore. Da quando ho l'età della ragione, da quando sono libero e padrone di me, lo cerco, ma inutilmente. Finalmente questa lettera del vostro amico Sinbad mi annuncia che egli è a Parigi e mi autorizza a rivolgermi a voi per averne notizia. In verità, signore, tutto ciò che mi raccontate è molto importante, disse il conte, che guardava con cupa compiacenza quel fare disinvolto, segno di una beltà simile a quella dell'angelo ribelle. E avete fatto benissimo ad aderire in tutto e per tutto all'invito del mio amico Sinbad, perché vostro padre è veramente qui e vi sta cercando. Il giovane Andrea fece un balzo gridando: mio padre è qui. Certo, rispose Montecristo, vostro padre, il maggiore Bartolomeo Cavalcanti, e aggiungerò che l'ho lasciato in questo istante. Ora lo vedrete, è un po' rozzo, un po' impacciato, ma è a causa della vita militare. È da 18 anni al servizio dell'Austria, ma è un buon padre, ve l'assicuro. Ah, voi mi tranquillizzate, signore. L'ho lasciato da così lungo tempo che non conservo di lui alcun ricordo. E poi voi lo sapete, una grande ricchezza fa chiudere un occhio su molte cose. Mio padre è dunque realmente ricco, signore. Milionario. 500.000 lire di rendita. Allora, domandò il giovane con ansietà, mi troverò ben presto in una posizione invidiabile. Delle più invidiabili, mio caro signore. Lord Wilmore, su richiesta di vostro padre, vi ha aperto un credito di 5.000 franchi mensili presso il signor Danglars, uno dei più stimati banchieri di Parigi. E mio padre conta di restare molto a Parigi. Soltanto qualche giorno, rispose Montecristo. Il suo servizio non gli permette di assentarsi più di 2 o 3 settimane. Ah, che caro padre! Disse Andrea, visibilmente lieto di quella sollecita partenza. Per cui, soggiunse Montecristo, facendo finta di ingannarsi sull'accento di quelle parole, non voglio ritardare oltre il momento del vostro incontro. Siete preparato ad abbracciare questo degno signor Cavalcanti? Spero che non ne dubiterete. Ebbene, entrate dunque nel salotto, mio giovane amico, e troverete vostro padre che vi aspetta. Andrea chiuse la porta dietro a sé e avanzò verso il maggiore, che si alzò appena sentì il rumore dei passi che si avvicinavano. «Ah, signore, caro padre!» disse Andrea ad alta voce in modo che il conte lo sentisse al di là della porta chiusa. «Siete veramente voi!» «Buongiorno, caro figlio!» disse con gravità il maggiore. «Dopo tanti anni di separazione!» disse Andrea continuando a guardare dal lato della porta. «Che felicità rivederci!» «Infatti, la separazione è stata lunga.» «E non ci abbracciamo, signore?» riprese Andrea. «Come volete, figlio mio», disse il maggiore. E i due uomini si abbracciarono come in teatro, passandosi cioè la testa sopra le spalle. «Eccoci dunque riuniti», disse Andrea. «Eccoci riuniti», ripeté il maggiore. «Per non separarci mai più?» «Già, sono convinto, figliolo, che ora consideriate la Francia come una seconda patria.» «Sarei disperato se dovessi lasciare Parigi», rispose il giovane. «E io, capirete, non saprei vivere fuori di Lucca. Tornerò dunque in Italia non appena potrò.» «Ma prima di partire, carissimo padre, mi consegnerete senza dubbio i documenti con i quali mi sarà facile dimostrare la mia nobile nascita?» «Senza alcun dubbio. Sono venuto espressamente per questo.» «E i documenti?» «Eccoli.» Andrea afferrò avidamente l'atto di matrimonio di suo padre e quello della sua nascita e li percorse con una rapidità e una disinvoltura che denotavano un colpo d'occhio esercitato e un interesse vivissimo. Appena ebbe terminato, un'indefinibile espressione di gioia gli brillò sulla fronte e guardando il maggiore con uno strano sorriso. «E che?» disse in buon toscano. «Non vi sono più galere in Italia.» Il maggiore si drizzò. «E perché?» disse. «Perché se si fabbricano impunemente simili certificati, per la metà di questo mio carissimo padre in Francia vi manderebbero a respirare per 5 anni l'aria di Tolone.» «Come sarebbe a dire?» esclamò il lucchese, sforzandosi di assumere un'aria severa. «Mio caro signor Cavalcanti», disse Andrea stringendo il braccio al maggiore, «quanto vi pagano per essere mio padre?» Il maggiore fece per parlare. «Zitto!» disse Andrea, abbassando la voce. «Prima mi confiderò io con voi. A me danno 50.000 franchi l'anno per essere vostro figlio. Di conseguenza capirete bene che non sarò mai disposto a negare che voi siete mio padre.» Il maggiore si guardò intorno con inquietudine. «State tranquillo. Siamo soli», aggiunse Andrea. «Ebbene», replicò il lucchese, «a me danno 50.000 franchi in tutto.» «Ci capite qualcosa?» «No, proprio nulla. Poco importa, non è vero?» «Precisamente. Andiamo fino in fondo e sempre uniti. Vedrete che sono degno di giocare la partita. Non ne ho dubitato un solo istante, caro padre.» Montecristo scelse questo momento per rientrare nel salotto. Sentendo il rumore dei suoi passi, i due uomini si gettarono nelle braccia l'uno dell'altro. Il conte li trovò abbracciati. «Ebbene, signor Marchese», disse, «sembra che abbiate trovato un figlio consono al vostro cuore.» «Ah, conte, la gioia mi soffoca.» «E voi?» «Ah, signore, sono nella più totale felicità.» «Padre felice, figlio fortunato», esclamò Montecristo. «Una sola cosa mi rattrista», disse il maggiore. «La necessità di dover così presto lasciare Parigi.» «Ah, signor Cavalcanti, non partirete, spero, prima che vi abbia presentato a qualche amico.» «Sono agli ordini del signor conte», disse il maggiore. «Sabato, se volete, sì, proprio sabato. Ho parecchie persone a pranzo nella mia casa di Auteuil, Rue de la Fontaine 28. Fra queste il signor Danglars, vostro banchiere. Vi presenterò a lui. Bisogna bene che faccia la conoscenza di entrambi per sborsarvi il vostro danaro.» «A che ora potremo presentarci?» domandò il giovane. «Alle 6:30. «Sta bene, ci saremo», disse il maggiore portando la mano al cappello. I due cavalcanti salutarono il conte e partirono. Il conte si avvicinò alla finestra e li vide attraversare il cortile tenendosi sotto braccio. «In verità», disse, «ecco due grandi miserabili. Peccato che non siano veramente padre e figlio.» È necessario che i nostri lettori ci permettano di ricondurli a quel recinto che confina con l'abitazione del signor di Villefort, e lì, dietro il cancello ombreggiato dagli ipocastani, troveremo persone di nostra conoscenza. «Buongiorno, Valentin», disse una voce dietro l'assito. «Buongiorno, Maximilien. Abbiamo appena 10 minuti da passare insieme». «Mio Dio!» esclamò costernato Maximilien. «E che cosa c'è ancora, Valentin, per lasciarmi tanto presto?» «Non lo so. La signora di Villefort mi ha fatto pregare di recarmi da lei per una comunicazione dalla quale, dice, dipende una parte della mia fortuna. Che se la prendano pure tutta. Sono ricca abbastanza. Basta che dopo averla presa mi lascino tranquilla e libera. Mi amereste lo stesso se fossi povera, non è vero, Morrel?» «Ah, vi amerò sempre. Che importanza potrebbero avere la ricchezza o la povertà se la mia Valentin fosse con me e fossi certo che nessuno potrebbe togliermela?» «Ma non temete, Valentin, che questa comunicazione abbia qualche rapporto con il vostro matrimonio con il signor d'Épinay?» «Non lo credo.» «Tuttavia ascoltatemi, Valentin, e non spaventatevi. Finché vivo, non sarò mai di un'altra. E credete di rassicurarmi dicendomi questo, Maximilien?» «Scusate, avete ragione. Io volevo dirvi che l'altro giorno ho incontrato il signor di Morcerf. Ebbene, ha ricevuto da Franz una lettera con cui egli lo avverte del suo prossimo ritorno.» Valentin impallidì e si appoggiò con una mano al cancello. «Oh, mio Dio!» disse lei. «Se fosse proprio così! Ma no, no, una tale notizia non mi verrebbe dalla signora di Villefort.» «Perché?» «Perché, non lo so, ma mi sembra che la signora di Villefort, pur senza opporsi apertamente, non veda di buon occhio questo matrimonio.» «Bene, Valentin, sento quasi di amare la signora di Villefort.» «Oh, non abbiate fretta, Maximilien», disse Valentin con un triste sorriso. «Alla fin fine, se è contraria a questo matrimonio non fosse altro che per mandarlo a monte, forse darebbe ascolto a qualche altra proposta. Non credetelo, la signora di Villefort non esclude i mariti, ma il matrimonio.» «Come? Il matrimonio? Ma se detesta tanto il matrimonio, perché allora si è maritata?» «Non mi capite, Maximilien. Quando un anno fa le parlai di ritirarmi in un convento, lei, malgrado le osservazioni che si credette in dovere di farmi, accettò la mia proposta con gioia. E anche mio padre acconsentì, istigato da lei. Non ci fu che il povero nonno che mi trattenne.» «Ma infine, vediamo, Valentin, che interesse può avere la signora di Villefort a impedire che vi maritiate? Non avete ascoltato ciò che vi dicevo poco fa? E cioè che sono ricca, Maximilien, troppo ricca. Ho, da parte di mia madre, quasi 50.000 lire di rendita. Mio nonno e mia nonna, il marchese e la marchesa di Saint-Méran, devono lasciarmene altrettante. E il signor Noirtier ha egualmente l'intenzione di farmi sua unica erede. Ne risulta dunque che in rapporto a me, mio fratello Edouard, a cui non spetta da parte di sua madre alcuna ricchezza, è povero. Ora, la signora di Villefort ama questo ragazzo fino all'adorazione, e se io fossi entrata in un monastero, tutti i miei beni, uniti a quelli di mio padre, divenuto mio erede, sarebbero andati a suo figlio. Com'è strana questa cupidigia in una donna giovane e bella. Notate però che tutto ciò non è per lei, Maximilien, ma per suo figlio. E ciò che voi le rimproverate come un difetto dal punto di vista dell'amore materno è quasi una virtù. Ma ditemi, Valentin, disse Morrel, se voi cedeste una porzione dei vostri beni a questo figlio. Ma come fare una simile proposta, disse Valentin, a una donna che continuamente ha sulla bocca la parola disinteresse. Oh, ma mio Dio, sentite, mi chiamano. Oh, Valentin, Valentin, un favore, disse Maximilien. Il vostro dito mignolo, che io possa baciarlo attraverso queste assi. Valentin salì su una panchina e passò non il mignolo attraverso l'apertura, ma tutta la mano al di sopra del recinto. Maximilien mandò un grido e, arrampicandosi con un balzo sullo steccato, afferrò quella mano adorata e vi impresse le labbra ardenti. Ma subito la piccola mano sgusciò dalle sue e il giovane sentì fuggire Valentin, spaventata forse per quella sensazione a lei sconosciuta.